Tu ti faccia una cosa. Fammi già rosso. No, bravo, ma cosa hai fatto? Male mi sei rimasto. No, vabbè, ancora niente. Dopo 50 anni si fa quella visita lì. La mia è un altro, dai. Io sono andato e mi ha messo il dito. Ha abusato di me quello lì. Hai visto? Tutto il dito? E allora? L'hai sentito? Vuoi che ti azzuto? Però tu. Dopo ce l'ha piangato. Me la piango di con Nutella. Quanto pure, amico. Quanto è tutto, certo. Ma sei smarginato? Io non lo sapevi. Ah, beh. Certo. Andava, era. Purtroppo bisogna fare, adesso noi stiamo ridendo, scherzando, ma bisogna fare le viste, altro che... Che bella cosa, zozzona? Senta. Vabbè, stupida Natalino, era tranquillo, la prima volta l'ho operato, non so, l'hanno ricoverato, però vabbè, ha avuto l'infarto, vabbè, poi dopo l'infarto l'hanno operato al calcolo della cistifrea, poi alla schiena, e poi gli è venuto il diabete, tutte le cose, tutto un paio di beni, sono tutti vari controlli, è un casino, siamo mani freghisti, vero Natalino? E a lui, da quando mi è venuta la pancreatite anche diabetico sono diventato, figurati. La pancreatite, è vero, anche quella. E dove va? Vabbè. Purtroppo siamo vivi, quando saremo morti non ci viene più niente, noi siamo più, boh, finito. Infatti, va a cominciare a Ciappan Antonio, che bello deccio, urologo, lo trovo in interrogato. Ah, tu devi fare un ghiaccio di lino. A te te la fate un ghiaccio di lino. Ti ha fatta, male mi sei rimasto. Ah, e quindi ti ha mandato tendenza. Vedo, ambruso. Ui, non buona 90 gradi. Certo che chiamate tendenza, perché non si sente. Adesso lo chiamiamo tamburello. Bello, che vediamo di fare? Tanto male deve raffreddare. Andiamo a raffreddare. È così, bisogna fare le visite ragazzi, soprattutto le analisi del sangue, io le faccio spesso, E ogni tanto le pago, anche se c'è un'esenzione. E guarda che conosce chi su quattro. Che tamburello. Ehi, per carità, che persona brutta. Ehi, vabbè. L'ho sentito quando era l'altro giorno, addirittura è entrata una ragazza lì, ha detto che batteva, hai capito, gli piaceva i Paesi Bassi, ha detto, a tutti. Ha detto che stava aspettando un'amica sua che si aggiornava al telefonino con quell'applicazione e così entravano tutti e due, hai capito, perché dice mi mancavano i clienti, è arrivato, entra. Ma lo sai, ancora un poco buoni fuoco burro questo tamburello, già lo so già tutte le storie, perché io ascoltavo, ma per me guarda, lasciamo perdere perché non mi interessava la verità, perché niente fa carità. Ma la crema venghi su CB Talk. E io lo so, aspetta che devo girare il coso, il cavallo, ci rientra fra poco. Sì, tamburello, che. Tu vai te su Rai, Luca, Natali. Sì. Tu vai te su Rai, che su CB Talk tu ce l'hai mai avuto. No, ce l'ho avuto, l'ho disinstallato subito. Ah, che non c'era mezzo me, non c'era mezzo umano. Sono bravi, ma ce ne sono, per carità, niente, non si sa manco che significante, che non vale a nulla. Oh signore, ma allora gira io a me non andare a vedermi la televisione, tanto magnato giù magnato. Quindi. Ciao, sei mangiato oggi la tarifa, ma buona? Sì, ho mangiato pasta asciutta, una fettina e insalata, buona. Ciao, dove? Lui, perché tu stai dove? mannaggero. Che perché, cosa mi mangia? Le uova, roba così. Ha giubilato pure una forma di... se non ne mangio. E tu va rimangi che cosa? Sì, già le mangio, poco, posso, ma già lo sai, i diabetici cosa buoni. Poca roba. Che la fa? Ma già mi piace, io a Natale. Ava domani la tasso, ha giubilato una forma intera. Era buon prezzo la giubilata, dopo la giubilata una forma di ricotta. Domani facciamo la pasta. E anche mia moglie quando prende la ricotta facciamo la pasta con la ricotta. Cioè facciamo la pozzo. Cosa fai da? Sì, ma io sono più pratico là. Ah, capito, ci metti più amore. Già so un anno va che non mangio la carbonara, quasi qui la carbonara paurosa. E non ne ho più mangiato. Non ne avevo voglia poi, mi adesso ho recuperato 4-5 kg. Cazzo, ero diventato uno scheletro. Io già so cuffare la carbonara, già. Sì, ma io la faccio con la fanno i cookie. Io la faccio di Rusarrivo. Cioè, però la faccio pure io. Io ti pongo pure appena in ziota. E chi sapevo, No, se tu la fai come la faccio io non ce ne vuole, c'è un sapore e tu la devi mangiare. E cosa vi buono i Natali? Sì, cosa mi va? Io la giubilata ho visto un filmato che l'ha fatta un cuoco e io l'ho fatta uguale. Ci sono così belli, i ingredienti. Come va proprio fatta la carbonara? Brava, secondo me è un po' di zio da vivo. Se no, no, non andava bene. Si può fare, se non ne hai, si può fare anche senza. Però, e cosa l'hai fatta con la panna? L'hai come te la fatta in zicchi? No, niente. La carbonara classica, non ci vuole né cipolla, né panna, né nulla. Ci sono così zendi, chi vede un trucco va a farla. Come la fanno proprio i cucchi? Già te lo spiego, adesso qua viene male, lo devi vedere come si fa. E ci sono così zendi, chi ti mi ingredienti? Pure se mangi la mia di ingredienti, perché la so fare. Io la so fare in tutte le maniere. Sì, vabbè. Ognuno la fa come crede. Io ho visto questo cuoco come l'ha fatta ed è una bomba. E tu mi lavoro, ne mangio bombo. Ma la mangiano a te, sì. Già mi piace la verità, yeah. L'ho fatta mia sorella ieri, però quando lo faccio io c'è un qualcosa di diverso, proprio ora so che proprio va, era buona però io poi io lo faccio molto meglio. E ognuno va la mano suya. La verità a me mi piace lo gaccio in mezzo a questa cosa. La mia c'è proprio una cremina, guarda. E non ne posso gritare da io, no? E quando posso la carbonara esce una bomba. E buona veramente quella che faccio io. E poi non ci vuole la pancetta, perché nella carbonara ci vuole il guanciale. Guarda, sì, io l'ho provato, però per questione mia non mi piace il guanciale. Era già provato, però non... Sì, va bene lo stesso, però preferirei metterci la pancetta, capito? A preferenza mia. Però se mi metto anche se c'è il guanciale, faccio anche con il guanciale, non è un problema. Pure io faccio una bella cremina, Uno quando la sa fare la cosa, non c'è niente da fare. Infatti. Poi uso uova buone. Sto preferendo comprare quelle allevate a terra, sono migliori. Sì, ero grillo. che sei in batteria, oh. Che la fa? Sono migliori come uova, le batte a terra. Come formaggio lo sto comprando molto, quello che non so se lo conosci, il Gran Capitano. Costa un pochettino di più, ma è buono, è veramente buono. Sì, la roba vuole di qualità, specialmente italiana. Roba di cura bisogna non pigliare. Se te la buono in muro in mezzo all'anche. La roba di cura. Sì, ancora non la vuole comprendere da ieri. Che roba. Come passa, non sto prendendo più la barilla io, sto prendendo l'acellino perché è migliore, la sento anche migliore cucinando. La barilla oggi provata, non ve a cucinare, ma che cosa che non anda, che si è matrasciuta, non è più come una volta. Sì, ci saranno imbastarditi. Già la dice lunga che ci mette di più a cucinare, già perché, ma l'hanno acciappato pure Rodrigo un poco truffaldino, Natale, qualcosa. Sì, infatti, che cosa vedi? Sì, ovviamente sono tricciata la notizia, un casino che è successo, delinquente, sì, per il profitto fanno quello e altro. Guarda, io ho provato a cucinare, mamma mia, ci vuole molto di più a cucinare, c'è qualcosa che non va sulla barilla, molti la comprano, sono fissati, e io non ne compareggio. Sì, ce ne sono casse migliori della barilla, Cellino e Saglio, chi vende la farina, buh. Sì, io compro quella lì, ma poi le vende anche l'Eurospin, viene fatto lì a Coso, c'è una grossa produzione Cellino, viene fatto lì a Oristano, fatta giusta, la pasta Cellino, fornisce vari posti, ma io preferisco comprare Cellino perché la sento migliore, la sento. Piuttosto che comprare con la barilla. Sì, magari buono in idrico scadente, che arrivi tu da chissà un dì, a guadagnarvi di più, mi. Ed è pagato che così. Insomma, Paesi Bassi, Rodrigo, è geneticamente modificato. Allora già vuol dire, pigli un terreno in qualsiasi parte, gli faccio una cosa del genere e cresci vitalmente in mezzo alla neve. Non è roba sana quella. No. Magari chissà. Che la palcola è bassa. Quindi grazie Rodrigo lo sa dalla Russia, ma molti da Patrico e dai paesi dell'est. Cioè, e la barilla è una di quelle che le compra di più me. A chi mi ruota che non sa cubarato e devi guadagnare di più. Però da voi la ministra non serve. Non hai compreso come te la situazione. Non so Guglia. Ma secondo me avrebbe voluto prendere tutto qua e via. Ma quel Luca è un abissato, si è. Luca! Come si anche va? Aspetta, ma viene da tu una visita da fare, lo sai dove è Oristano, dove devo andare, oggi sto andando a fanculo. Ho telefonato 2 giorni dopo e me l'ha mandata a Platanona. Andiamo, mucca, si arriva più forse di Natalino. No, Natalino non che forse è vero. Forse è la zona tua. A Vacca Platanona ce la fai. Se no devi andare a Oristano, a Mucassoli, casino, E poi tu non ce la fai a viaggiare così a lungo. Sì, già ce la faccio, guidate, già ce la faccio, non è problema. Io sono basso perché sono con 2 watt e mezzo. Hai capito bello bene? Che posso arrivare più forte, mi? Guarda adesso. Becchino. Allora, mamma, lo stesso non riusciva a prendere nessun tipo di appuntamento, tipo elettrocardiogramma, oppure l'altra. Comunque sono 2 elettrocardiogramma e l'altra, quella che non mi pare un nome. Poi c'era l'altra, però quella l'ho presa all'ospedale, quella del pacemaker. Poi lo stesso, un diabetologico, non riusciva a prendere appuntamento, chiamato da lì alla Palazzo Rosa, gliel'ho presa. Adesso devo prendere quella di oculistica, solo che a Sassi non c'era niente. C'era ma ha detto la perfugas mi pare, c'era altre 5 casi per fare la visita. Adesso richiamo domani, dopo domani gliela prenoto per qua. E al policlinico prenotagliela, che c'è l'oculista lì, l'ho fatta io lì al policlinico, che mi erano ordinato ma te si per chiudere del diabete il fondo dell'occhio. Ma che c'è un ecco color Doppler, questo che devo fare a Platamona, per un'arteria che ho che bisogna controllare, tenerla sotto controllo, e poi il risultato lo devo portare a questo dottor Medici che ha poi sul Dorra, che è un chirurgo vascolare, capito? Quello l'ho fatta, sai dove? Ai testicoli, al come si chiama? Policlinico, a pagamento, Figurati. No, a Platamona li fanno quelli lì. L'altro che avevo fatto l'avevo fatto stesso a Platamona, va, ando, la di 17. Poi il giorno 19 devo andare a farmi la seconda dose del vaccino. E speriamo che sia finita qua la situazione, ha giudicato i bieni. Beh certo, casino queste visite, via. Vabbè, dai, che ne so, ho cenato poco. E niente, adesso guardiamo un po' di TV, ci sentiamo alle prossime. Ciao Antonio, ciao Natalino, ciao Bomponio, Claudio, non so chi ci sia qua, ciao. Ciao Lu, buonanotte. Altrettanto ad Antonio e chi altri ci fosse in ascolto, anch'io me ne passo in corretti, dai, alle prossime. Ciao, buonanotte Natalino, ci risentiamo, ciao ciao. E buonanotte anche a te Luca, ciao ciao. E me, Cannarella. Ui, Claudio, buonasera. Allora. E allora, come va? Bene, più o meno, sto mangiando bene. Sta ravvendire, vai. Sta piovendo qua, sta c'era che piove. Che gocciolina, lascia vedere, Giulia, lascia vedere i nocchi, ah no, qua non sta piovendo, no, oh no, ma qua è montagna sì, anche nebbia, c'è un po' di nebbia, e per il vento andarcene, ma non mi senti, Anto? Sì, già ti sento, stavo chiudendo l'ucernaio, aspetta, ecco qua. Ci sono andato, stavo chiudendo l'uccernaglio, mi veniva male perché ero tutto quanto aperto. Ah, gappa. Ma guardate come si ramandieva. E guarda che ci amendi. Oggi un po' così, Ieri erano forti, siamo andavamo qua. Oh, vabbè. Anche oggi ci vuole propagazione comunque. Ah, non esagerato però. Non so dov'è, ma sicuramente è una beccia. Ehi, più che aperta, io sono una vallata, ma comunque è un bel alta. Come l'altitudine è più alta, la misura da Roberto ci sono quasi 100 metri in più. Non è mai come in Chidà, vabbè, non mi interessa, noi che ci vive solo di là, divento. No, vabbè, sto facendo una differenza io. Comunque no, non è male, va bene. E quattro volte sto usando io. Sentite davanti, va benissimo. Se mi sentite ve l'ho detto, va bene così, per il resto non mi interessa più niente. Ah, ti è arrivato qualche aggeggio? Cosa? Qualche aggeggio non ti è rimasto? Sì, ne ho quattro amplificature, non attacco più niente davanti, il barattino monolato ce l'ho fatta. Non mi interessa più niente, già va bene così. Era proprio l'ho fatta però. Sì, già ho fatto la prova, l'ho fatta con Roberto. Attaccato gli arrivo quando gli arrivavo da Sassari, quindi. Non mi interessa, tu non me la fotti tutta, l'ho già detto. L'avevo detto già, no, che è andato via dal carbonati, io non... La radio passa in secondo grado, capito mi hai? Vabbè, prezzo che vuoi, forse potevi più di prima attaccare roba. Boh, vabbè, vai come vuoi. Io non ho attaccato di più ancora. Ah, ma già ho contato con lei nel 90, già andavo uscito. Giusto due chiacchiere, ci sentiamo e va bene. Kappa kappa. Ehi, danda, vai, dai. Ah, pure io non è che... cioè, lo uso solo quando mi serve. Se no lo uso sempre questo, no? Non è un problema. Basta e avanza. Ma tu immaginati che è arrivato il 430 venerdì, ancora dentro la scatola, non cavo io. Figurati tu. Non vaggio, manco toccato, manco sballato, vaggio. Vabbè, e da quando mi da vinti che da? Cosa tu? Che ce l'avevi da parecchio, ce l'avevi là? No, ma me l'ha mandato, poi gliel'ho rimandato perché mi doveva aggiungere un filtro, capito? Capito, mi è arrivato venerdì e ti dico che ancora dentro la scatola c'è manco sballato, niente, nulla, è sempre dentro la scatola. Adesso se c'ho tempo, domani, questi giorni lo sballo e lo attacco. Cappa, ma cosa, non ti ha aggiunto il filtro? Cosa ha combinato? No, le mancava un filtro le mancava, l'ho comprato e gliel'ho fatto aggiungere. Ho capito. Cavolo. Sono sempre i cose che molte volte no, se ne mitigheggiano magari. Sì, tanto 100 euro non l'ho pagato sul filtro, non è che l'ho pagato 2 lire. Infatti non ne volevo mettere, però siccome quello è un altro 430, non è quello che c'avevo prima, quello che avevo prima l'ho venduto. Quindi mi sono comprato un altro e quando me l'ha mandato ho visto che era senza filtro per la M, allora gliel'ho rimandato e me l'ha messo. Scappa, ho capito. Va tu bene a punitino, che se era meglio così. Come te ne tocchi che ci cavolo di radio, vivono sempre di là, Gesù Cristo mio. Vabbè, però a differenza degli altri, il 430 senza filtro M riceve male, capito? Ci vuole per forza, e quindi gliel'ho fatto mettere. Vabbè, andiamo bene così, dai. Vabbè, niente, vado a mangiare, mi hanno chiamato, Un abbraccio, ci sentiamo, saluto a tutti per chi mi sente, ciao! Ciao, ci sentiamo, tutti d'intenne, no? Ciao, ciao! Ehi, ciao a tutti! Ciao, ciao!